in primo piano. In questo mercoledì 30 giugno, certo, voglio citare intanto l'apertura del Sole 24 Ore per quel che riguarda l'economia. È stato un martedì nero per le borse e questo è il titolo: martedì nero per le borse, la BCE non proroga, il salvagente liquidità e i titoli bancari cadono. Ma come detto, la notizia che conquista la maggior parte delle aperture dei giornali è proprio la condanna in appello a Dell'Utri. Mafia, 7 anni a Dell'Utri per il Corriere della Sera. Mafia, Dell'Utri è colpevole per Repubblica. Mafia, 7 anni a Dell'Utri per il Messaggero. Dell'Utri padrino part-time, questo è il titolo di Libero. Sentenza ipocrita, condannato per concorso esterno ma solo prima del 92. Tra l'altro qua c'è una notizia sul Libro: così sarà prescritto. Mafia, 7 anni a Dell'Utri anche per La Stampa. Invece il giornale si concentra su un'altra sentenza che fa discutere: l'assoluzione di Tartaglia, colui che ha lanciato la statuetta del Duomo in faccia al presidente del Consiglio Berlusconi. Assoluzione perché è incapace di intendere e di volere. Il titolo del giornale: ferire Berlusconi si può. Vedremo altre aperture su Dell'Utri tra poco, altri giornali, ma come detto questa è la notizia che troviamo un po' sulle prime pagine, le prime 4, 5, 6 pagine di tutti i giornali, con anche tantissimi commenti. Per esempio Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera: la doppia verità di una sentenza. Marcello Dell'Utri è stato condannato, Forza Italia assolta. Il senatore è stato amico dei mafiosi e concorrente nei loro reati, ma il movimento politico che ha contribuito a fondare non è il partito della mafia. Ancora una volta una sentenza contrastata spezzetta la storia degli imputati in diverse parti, attribuisce loro significati diversi, consente a ciascuno di prendere il brandello che preferisce per dire che ha vinto la sua tesi di innocenza o colpevolezza che sia. È successo pure in questo caso, scrive Bianconi, nonostante non ci sia una prescrizione come nel caso di Andreotti o una derubricazione del reato come accadde con Cuffaro in primo grado. Certo, però, c'è da dire, Marcello Dell'Utri è stato giudicato colpevole di aver intrattenuto con boss e uomini d'onore rapporti talmente stretti da sconfinare in un reato, il cosiddetto concorso esterno immaginato da Giovanni Falcone nel 1987. Ora, come detto, ci sono tanti commenti, ci sono anche le critiche per il fatto che Dell'Utri abbia voluto ribadire Vittorio Mangano, il famoso stagliere che fu portato da lui ad Arcore anche a lavorare nella villa di Berlusconi, che lui più volte in passato ha definito il mio eroe e anche oggi lo definisce il mio eroe. Ha fatto anche le condoglianze Dell'Utri al procuratore generale Nino Gatto, che aveva chiesto la conferma a 11 anni di carcere, aveva detto: voi giudici potete scrivere la storia. E tra l'altro il procuratore Gatto, che a Repubblica dice: ho sentito che il senatore Dell'Utri voleva chiamarmi per farmi le condoglianze, non l'ho ancora fatto, lo ringrazio vivamente per il pensiero, ricambio le condoglianze con affetto, perché se devo considerarmi a lutto io per la sentenza, lui deve considerarsi tale 7 volte di più a giudicare dagli anni di carcere che gli sono stati inflitti. Come detto, ieri Dell'Utri ha fatto una conferenza stampa, oggi fa un paio di interviste. Una è a Paolo Colonnello sulla Stampa, pagina 3: i miei giudici onesti ma senza coraggio. Quali vantaggi alla mafia? Inizia così Dell'Utri: se mi accusano di aver conosciuto Cinà o Mangano, è vero, li ho conosciuti, ma è tutto qui e non mi sembra un reato. Uno può essere mafioso, ma fino a un certo punto, chiede Paolo Colonnello. La domanda è retorica, non esiste. Come dire, uno è ingegnere, ma fino a un certo punto o lo si è oppure no, non ci sono vie di mezzo. Ecco perché a quei giudici è mancato il coraggio. Il coraggio sia per condannarmi, sia per assolvermi. Riguardo ai pentiti, questo esercito di pentiti portati al mio processo, quelli del solito giro che accusano Andreotti e Mannino, fatto di persone che dicono cose che hanno sentito da altri, cose allucinanti, mai sentito uno che dicesse ho visto Dell'Utri fare questo o fare quest'altro. Riguardo, eccolo qui, alle possibili dimissioni, al rapporto con la politica. Non ho mai detto che sono entrato in politica per scampare la giustizia, l'ho detto che ho fatto per legittima difesa, questo sì, volevo fare politica senza bisogno di andare in Parlamento. Il mio ruolo è compatibile con condanna per mafia al Senato? Assolutamente sì, dice Dell'Utri. Finché non c'è sentenza definitiva, la Costituzione dice che l'imputato si deve ritenere innocente. Il mio è un percorso che finirà l'anno prossimo e fino ad allora sono innocente in attesa di giudizio. E poi dice: non ho mai pensato di scappare e mi vedo anche in carcere. L'importante è stare bene. E infine la vicenda di Vittorio Mangano, che lei definisce un eroe, ancora, ma la si vuole capire. Mangano è il mio eroe e lo dirò fino alla fine dei miei giorni, perché si è comportato con me stoicamente. Poi di lui si può parlare quando si vuole, ma quando l'ho conosciuto io era una persona avulsa dall'ambiente mafioso, ha lavorato bene ad Arcore. Poi, come dice Dante, che colpa ho io della sua vita rea? E infine Paolo Colonnello chiede a Dell'Utri: ma se Mangano è il suo eroe, Falcone e Borsellino chi sono? Non c'è paragone, non c'è neanche a dirlo da chiederlo, è offensivo doverlo precisare, è ovvio che loro sono due eroi. Parla anche al giornale Marcello Dell'Utri, sempre un'intervista, definisce minchiate le accuse nei suoi confronti. E riguardo al finale dice: mettiamo che venga lei assolto, non festeggio, non bevo neanche lo champagne, questa pena, la mia pena l'ho già scontata in questi 15 anni, se invece la condannano accetteremo il carcere, se c'è da andare ci vado, non si muore in carcere. Allora, insomma, tanti commenti, come detto, anche di editorialisti, anche di direttori. Repubblica solo va a sondare un po' l'umore di Silvio Berlusconi, che è a San Paolo del Brasile e che secondo Repubblica dice teme l'affondo finale, ora proveranno a colpire pure me, assolvono Tartaglia, uno che ha provato ad ammazzarmi, e condannano Marcello solo per aver conosciuto 30 anni fa persone che poi si sarebbero scoperte vicine alla mafia. Questa è la magistratura giacobina che ci ritroviamo. Questo è un virgolettato che viene attribuito da Francesco Bei a Silvio Berlusconi all'hotel Tivoli di San Paolo nella Hall. In realtà dice tutto è filtrato da Paolo Bonaiuti, ma questa è la sensazione di Berlusconi, che dice anche dell'associazione mafiosa, un reato che nel codice penale nemmeno esiste, inventato dai magistrati, usato per colpire gli avversari politici. Così come molto duro è in prima pagina del Foglio, in un editoriale, o meglio in un articolo non firmato come spesso succede il Foglio, dal titolo Il politico Dell'Utri non ha mafiato. Ora che la Corte d'Appello di Palermo ha assolto Dell'Utri da tutte le nefandezze che gli hanno state attribuite dal 92 in poi, ora che tre giudici togati, dopo 5 giorni di Camera di Consiglio, hanno stabilito che la mafia non ha avuto parte attiva nella nascita di Forza Italia, che ne sarà di tutti gli attori e replicanti che ancora insistono per riaprire un altro teatrino giudiziario nel quale assegnare a Berlusconi il ruolo di mandante occulto delle stragi? Che ne sarà di tutti coloro che dentro o fuori le aule di giustizia teorizzano la regia scellerata di un'entità alla quale avrebbe obbedito quei boss senza scrupoli che prima massacrarono Falcone e Borsellino, poi misero le bombe a Roma, Firenze e Milano? Il fatto non sussiste, ha sentenziato ieri la Corte, presieduta da Claudio Dell'Acqua. Ma, aggiunge il Foglio, è vero che il palermitanissimo Dell'Utri ha traccheggiato con la mafia e i mafiosi, è vero che appena arrivato a Milano ha chiamato lo stagliere Mangano ad Arcore per dare protezione a Berlusconi, è vero che ha chiesto e ottenuto l'aiuto di Cosa Nostra quando c'erano da installare le antenne di Canale 5 in Sicilia, tutto vero, da qui la condanna a 7 anni di carcere, ma a partire dal 92 il concorso esterno di Dell'Utri finisce, e così se qualcuno vuole ancora rimestare nelle acque nere della dietrologia faccia pure. Certo, sentenza che effettivamente fa molto discutere. Il Fatto Quotidiano in prima pagina mette Dell'Utri e Berlusconi forza mafia. Peter Gomez, la pornografica esultanza con cui buona parte del PDL ha accolto la nuova condanna di Dell'Utri per fatti di mafia spiega bene in che tipo di realtà criminale vive ormai la classe dirigente del nostro paese. Insomma, Peter Gomez dice: sì, dal 92 non sarà colpevole, ma fino al 92 manteneva rapporti stretti con mafiosi. Così come il Manifesto. Il pezzo da 90, questo è il titolo sulla foto di Dell'Utri. C'è Giuseppe Di Lello, mafioso senza appello, che firma l'editoriale. Il senatore Dell'Utri, cofondatore con Berlusconi di Forza Italia, è stato condannato anche in appello per concorso esterno in associazione mafiosa. Nudo e crudo, politico più che giudiziario, il fatto è questo. E su questo bisogna ragionare in attesa di leggere le motivazioni della sentenza e la pronuncia finale della Cassazione. Insomma, comunque la vediate, come vedete fa molto discutere, come dice anche Maurizio Belpietro in prima pagina di Libero, queste sentenze poi politiche vengono prese a brandelli e vengono utilizzate come uno crede. Il dato di fatto è accertato, è questo, la condanna in appello a 7 anni di carcere. Lo stesso Belpietro mette in prima pagina però la notizia, essendo innocente dal 92 in poi, scrive a pagina 3 Belpietro, il reato potrebbe cadere in prescrizione perché tra breve saranno trascorsi 20 anni dai fatti. Staremo certamente a vedere. L'altra sentenza che certamente fa discutere è quella dell'assoluzione perché non imputabile, perché non in grado di intendere e volere al momento del fatto, a Massimo Tartaglia. Tartaglia assolto, incapace di intendere e volere. Sul Corriere a pagina 10 c'è anche il racconto di come vive nella comunità, le giornate in comunità, legge, dipinge. Ai genitori dice: perdonatemi, mi dispiace per le preoccupazioni e i problemi che vi ho creato, anche voi siete stati travolti da questa vicenda. Mentre sempre dal Brasile Il Giornale raccoglie lo sfogo di Berlusconi. A pagina 4 Silvio sorpreso, è incredibile. Può passare il messaggio che aggredire il Presidente del Consiglio non comporta conseguenze, mi ha quasi ammazzato e non è successo nulla. E infatti il titolo di apertura del Giornale, come detto, lo voglio ricordare, ferire Berlusconi si può, assolto Tartaglia, questo in prima pagina. La politica si interroga tutto su questo. Tra l'altro voglio ricordare che riguardo a questo caso, cioè il caso Tartaglia, la Stampa, sempre che la voce mi assista fino alla fine della rassegna Stampa, la Stampa mette insieme anche la vicenda di Susanna Maiolo. Forse vi dice qualcosa, vi fa ricordare qualcosa questo nome, la 25enne italo-svizzera che la notte di Natale ha scavalcato la sicurezza e ha spintonato trascinando a terra il Papa. Ebbene, anche lei non ha fatto neppure un giorno di carcere. Casi diversi, certo, ma la Stampa li mette insieme alla vicenda Tartaglia, come dire, anche lei è stata mandata in un ospedale di Subiaco per 2 settimane in trattamento sanitario obbligatorio, non in isolamento, poi è stata anche ricevuta privatamente dal pontefice che le ha espresso sentimenti di perdono. Beh, certo, c'è molto da discutere anche di questa assoluzione per Tartaglia, perché è incapace di intendere e volere secondo i magistrati. Come detto, la politica, Berlusconi in Brasile, Gerardo Pelosi a pagina, nella prima pagina di Economia e Imprese, vale a dire a pagina 21 del Sole 24 Ore, racconta i maxi accordi tra Italia e Brasile, accordi di partenariato per almeno 10 miliardi di interscambio, per promuovere l'interscambio commerciale, ovviamente le opportunità di investimento, anche se lo stesso Lula ha detto sarebbe più giusto 20-30 miliardi anche per l'importanza delle nostre due economie, sia quella brasiliana che quella italiana. E vabbè, c'è solito Berlusconi anche un po' su di giri, così scoppiettante, scintillante. Le ultime che ha detto dopo la famosa barzelletta sulla cameriera: volevo farmela sul letto, ma presidente, l'abbiamo già fatto un'ora fa. Vedete l'età che scherzi fa. Questa è la barzelletta nuova che racconta Berlusconi in questi giorni. Ma c'è anche questa: quando avevo 30 anni ho fatto un giro di diverse tappe in Brasile, sono tornato, avevo avuto 12 fidanzate brasiliane. Accidenti, 12 fidanzate brasiliane. E soprattutto ho imparato ad apprezzare la musica brasiliana, al punto che, dice Berlusconi, oggi sono l'unico in Italia che riesce a comporre samba e bossa nova in dialetto napoletano. E poi anche parlando con Lula ha parlato di calcio, qui il calcio è poesia. E poi che cosa c'è anche, l'altra passione, le donne. Lula mi ha detto che è sposato da 35 anni, ma mentre lo diceva aveva l'occhio birichino, dice Berlusconi di Lula. In realtà, che succede anche nel retroscena della politica, mentre Berlusconi è in Brasile, qualcosa si muove anche in Italia. Secondo Francesco Verderami, pagina 13 del Corriere della Sera, di cosa sta soffrendo in questo momento l'esecutivo di Berlusconi? Di immobilismo, l'immobilismo e i timori di Letta. Di carte in mano non ne ha, non riesce a sparigliare il gioco, ecco perché il premier attende e spera di pescare il jolly, la ripresa. E infatti Berlusconi in Brasile ha detto: la crisi è alle spalle, c'è la ripresa. In realtà, scrive Francesco Verderami, c'è un immobilismo peggio di una crisi di governo. Il primo a esserne preoccupato della situazione è Gianni Letta. C'è il nodo dello sviluppo economico, l'interim dopo la vicenda Scajola. C'è la vicenda con l'UDC. Più volte, scrive Verderami, lo stesso Gianni Letta si è fatto ambasciatore del premier offrendo al partito di Casini il Ministero dello Sviluppo Economico, ma Casini ha spiegato a Berlusconi che è disposto a discutere solo di un nuovo governo e dunque il premier prima dovrebbe aprire una formale crisi, opzione che il cavaliere non contempla. Ecco perché il jolly è questo, quello della ripresa. Punterà molto, secondo Francesco Verderami, nei prossimi giorni Berlusconi sulla ripresa, sul fatto che la crisi è alle spalle, sul fatto che c'è la ripresa. È il jolly per tirarsi un po' dalle secche dell'immobilismo di governo. Tanto che oggi lo stesso il ministro Bondi, per criticare i cosiddetti poteri forti, l'accusa al Corriere della Sera di tramare quei poteri forti contro il governo di Berlusconi, prende carta e penna e scrive, paradossalmente però, al Giornale, che pubblica la lettera di Sandro Bondi in prima pagina con la risposta di Vittorio Feltri. E da qui ripartiamo dopo il traffico. Ingenerose le critiche al governo, questa è la lettera di Sandro Bondi, il ministro della cultura, pubblicata in prima pagina del Giornale, nella quale tra l'altro però attacca e critica punto per punto l'editoriale di Galli della Loggia pubblicato sul Corriere, non sul Giornale, un paio di giorni fa. Al che è interessante la risposta di Vittorio Feltri, che è questa: state attenti, rischiate di deludere. Caro ministro Bondi, comprendo la sua necessità di una difesa d'ufficio del governo Berlusconi, ma comprendo lo stato d'animo che ha ispirato Galli della Loggia nel suo editoriale. Perché c'è un sentimento di delusione, forse non diffuso, ma che serpeggia anche in ambienti non ostili al premier. Feltri poi ricorda anche i successi, tanti successi e le cose fatte dal governo Berlusconi, ma poi alla fine appunto fa questa critica, cioè una critica al fatto che c'è il rischio, secondo lui, di una delusione da parte appunto di molti, anche filogovernativi. Fare le pulci a Berlusconi non significa ignorare il suo medagliere, lei, caro ministro, non lo ignora. Diciamo tutto questo per amore di verità, lo stesso amore di verità che spesso ci spinge a scrivere in dettaglio di errori dell'esecutivo e del suo capo, nonché della maggioranza che esprime l'uno e l'altro. Piaccia o no, è così. Vabbè, questo per quel che riguarda la politica. C'è molto di cronaca, tante notizie. La prima non positiva per voi che siete magari in viaggio o da domani vi metterete in viaggio. Da domani, scrive Giorgio Santilli a pagina 4 del Sole 24 Ore, i pedaggi autostradali rincarano. 1 luglio, doppia stangata autostradale già anticipata a fine giugno. È stato firmato infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza l'ANAS a procedere con la doppia operazione prevista nella manovra. La prima prevede il pagamento di 1 euro di sovrappedaggio per autovetture e moto classi A e B e 2 euro per i veicoli pesanti C, D, E su 26 caselli di concessionari autostradali interconnessi e raccordi autostrade dell'ANAS. Un pedaggio in 26 stazioni, Roma Nord, Roma Sud, Fiano Romano, Roma Est, Lunghezza, Sette Camini, Roma Ovest, Maccarese Fregene, Nocera, Cava dei Tirreni sulla 3, San Gregorio sulla 18, mi fermo ma se volete l'elenco lo trovate sul Sole 24 Ore, da domani o 1 euro o 2 euro a seconda del veicolo che possedete arrivano i rincari autostradali. Voglio andare a Torino, dove sulla stampa c'è spazio per questa vicenda che coinvolge Torino, ultimo di comuni, altri comuni si sono già buttati per questa strada, coppie di fatto, l'Italia ci segue. Il sindaco Chiamparino ha annunciato il sì del comune, una delibera che in pratica favorirà i diritti civili per le coppie di fatto, cioè coloro che non sono una famiglia, una coppia di persone, qualunque sia la loro relazione, anche una relazione omosessuale, che vivano insieme, avere diritti come, che ne so, l'accesso all'asilo, le graduatorie per le case popolari, tutto quello che sono insomma i diritti per quel che riguarda i diritti comunali. Il sindaco Chiamparino dice: le coppie di fatto non sono una patologia ma una fisiologia del nostro paese. La delibera di iniziativa popolare approvata dal Comune di Torino, che dice sia le unioni civili basate sul vincolo affettivo, è un segnale forte nei confronti del Parlamento. Ovviamente subito c'è il dibattito con la critica di Giorgia Meloni, il ministro della gioventù, molto dura, intervistata da Flavia Amabile, dice: inutile, sbagliato, ideologico. Ecco alcuni degli aggettivi usati da Giorgia Meloni per definire il riconoscimento delle coppie di fatto approvato a Torino. Mettiamola così, dice il ministro Meloni, lo Stato ha risorse limitate e riserva un trattamento di favore alla famiglia naturale, che è quella che tiene in piedi l'organizzazione sociale, permette il raggiungimento di alcuni obiettivi come la prosecuzione della specie, la protezione degli anziani, l'educazione. La famiglia naturale è utile, anche se mi rendo conto che la parola non è felice. I vincoli affettivi semplicemente non lo sono. E poi sulla questione delle coppie omosessuali rimane il no, assolutamente contrario alla fecondazione, al fatto che abbiano figli, e lo dico questo a favore dei bambini, perché hanno diritto di avere un padre e una madre. È una questione di principi di riferimento, quello di cui ci siamo occupati anche nei giorni scorsi. A Torino spingono sui diritti civili le unioni di fatto. Oh, io voglio andare anche, c'è molto sulla maturità. La maturità, vabbè, che cosa troviamo? Ovviamente Balotelli. Balotelli fa sempre notizia. Balotelli promosso, ora è maturo. Il Messaggero vi dedica addirittura mezza pagina. Ci fanno sapere che ha preso 9 in condotta. Diciamo, con un voto così alto, 9 in condotta. Proprio lui, che anche 3 giorni fa è stato preso con una pistola a scacciacani a sparare per strada a Milano. Ebbene, altro che discolo incorreggibile, 9 in condotta, agli iscritti ha preso 27 crediti su 45, che non è tanto ma non è nemmeno poco. Qualche domanda, ha fatto l'esame tenendo fuori tutti, perché ha fatto sapere il preside è una prerogativa, ha chiesto, non voleva curiosi intorno e dunque a porte chiuse. È andata bene, questa è l'unica dichiarazione di Balotelli alla fine. Ho risposto quasi tutto, tranne un paio di domande, non dico quali, se no faccio una figura di merda. Questo ha dichiarato Balotelli. In realtà, tra l'altro c'è un Gene Gnocchi spettacolare oggi su Balotelli, il rompipallone prima pagina della Gazzetta. Dopo il caso della pistola giocattolo, Balotelli ha promesso che maturerà, ne comprerà una vera. Ma la vera notizia inquietante sulla maturità è questa. L'Invalsi, vale a dire l'istituto che valuta i nostri studenti, ha valutato i temi dell'anno scorso. Ebbene, ne esce fuori un quadro desolante. Un liceale su 3 non sa scrivere in italiano. Mario Baudino sulla Stampa ne fa un'intera pagina, che inizia in prima pagina, prosegue poi a pagina 38. Il rapporto Invalsi sugli allievi degli istituti superiori, il quadro di una scuola che non riesce a insegnare una scrittura accettabile. Certo, non è che c'è stata un'ecatombe di bocciati, però se si analizzano dal punto di vista della logica, dal punto di vista della sintassi, della grammatica, i temi, dopo 13 anni, come dice una professoressa, ci troviamo davanti a ragazzi di un'estrema povertà dal punto di vista linguistico. Sul piano testuale, per esempio, il tipico errore è il non andare mai a capo. È incredibile, io non ci voglio credere. Non andare mai a capo, molti dei nostri ragazzi. Poi c'è l'aspetto grammaticale, a parte gli errori veri, come salti di soggetto, concordanze, ambiguità, uso improprio di tempi e modi del verbo, di congiunzioni. Poi ci sono anche il lessico, povero, tanto che molti ragazzi non distinguono tra apportare e asportare, tra installare e instaurare, tra transizione e transazione. In più molti fanno un continuo ricorso all'uso delle virgolette perché non si trova il termine adatto. È abbastanza inquietante, insomma l'Invalsi dice i nostri studenti, i nostri liceali non sanno scrivere in italiano, molti, il 4% di loro solamente è eccellente dal punto di vista dell'italiano, il 4%. Vabbè, insomma, magra consolazione, eh? Che dire. Allora, votate il sondaggio sulla vicenda dell'Utri condannata a 7 anni in appello. Secondo voi dovrebbe dimettersi dal Senato? Vi chiediamo questo, ne parleremo poi alle 8:30, ora il GR.